2024 di Enrico Pagliarini. Sono le 15:36 minuti. Buon pomeriggio, bentornati a 2024. Come le tecnologie ci cambiano la vita e le tecnologie la vita ce l'hanno cambiata in modo radicale un po' a tutti, soprattutto grazie alla tecnologia mobile, quella che gli esperti definiscono mobile technology. Oggi parleremo proprio di questo, cercheremo di fare un po' il punto sul mercato. Bentornati, benvenuti, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Oggi il nostro numero verde, ma del resto tutti i giorni, è 800 24 00 24. Io sono Enrico Pagliarini, in regia c'è Paolo Corleoni che si occupa anche della parte creativa del nostro programma. Oggi, dicevo, parleremo di smartphone, di telefonia mobile, uno dei fenomeni del momento è legato ai social network in mobilità. E se ci pensate bene, tra le cose che ci hanno cambiato la vita ci sono proprio i social network. Pensate all'impatto che ha Facebook anche indirettamente nelle nostre vite. Mi è capitato di sentire dire recentemente ad un amico: mi raccomando, non mettere queste foto su Facebook, una preoccupazione in più. Oppure provate a chiedere ad una persona di essere fotografata, sarà molto sospettosa anche per via dei social network. Tra parentesi, ricordiamo che pubblicare una foto di una persona senza il suo consenso su Facebook o su un altro social network non è normalmente consentito dalla legge e non basta dire che lui era consapevole di essere fotografato. Ma a proposito di social network, ecco che cosa pensa dell'evoluzione di questo fenomeno Christian Esser, olandese ed esperto dell'evoluzione dei media digitali, che abbiamo incontrato pochi giorni fa qua a Milano. Sentite questa chiacchierata. Sul tuo biglietto da visita cosa hai scritto? Non c'è scritto niente e c'è solo un indirizzo Twitter e il mio nome, tutto quello. Nemmeno un indirizzo email? No, non c'è. No. Come mai? Perché l'email come prima cosa è in fase di estinzione, perché email è corrispondenza e non comunicazione. Cioè, nel senso, se io voglio mandare un qualcosa aggiunto e voglio aggiungere un documento, per esempio, e voglio che venga registrato, mando una email. Se invece ti voglio chiedere una cosa, faccio via Twitter. O via Messenger o qualsiasi altra cosa. Esatto, esatto. Email è in fase di estinzione. Senti, a proposito di social network, comunque questa comunicazione basata sui social network, tu osservi questo fenomeno, questi fenomeni, perché questo è il tuo mestiere. Sì. Secondo te che cosa sta succedendo o che cosa succederà? Oggi siamo di fronte a un'esplosione dei social network, così come fino a qualche anno fa stavamo vedendo, osservando un'esplosione dei blogs. Sì. Cosa succederà invece? Ma guarda, sappiamo tutti, quando compriamo una macchina nuova la usiamo per fare i 10 metri e quando abbiamo 5 metri da fare la riusiamo ancora. Poi ci accorgiamo che non è interessante usarla per fare i 10 metri e tutto il modello si ridimensiona in modo che venga usato per le cose giuste. Sì, logico, social network ha a che fare col colloquio, ha a che fare con la chiacchierata, ha a che fare con anche un po' di svago, però a un certo punto è agganciato a tutte le parti dell'internet, anche le parti commerciali e le parti di conoscenza, eccetera, eccetera. Allora useremo i social network per canalizzare la nostra informazione e raggiungere l'informazione nel momento che noi lo vogliamo. E sono convinto che, anche se diciamo che social network è un discorso di pull e non di push dal punto di vista marketing, significa che io cerco l'informazione che la voglio e me la tiro, me la richiedo quando la voglio io, in un futuro sono convinto che social network avrà anche un push, perché noi come persone siamo molto pigre a volte, non vogliamo coinvolgerci in tutto, ogni tanto vogliamo sederci e dire: io voglio un paio di pantaloni nuovi. Il momento che lo dico, do un segnale di pull, però molto canalizzato, tutti quelli che riescono a vedere questo segnale avranno la possibilità di comunicare con me con l'esigenza che io voglio. Dunque, con questo voglio dire, social network è sicuramente pull, ma anche push on demand. Quindi questa euforia dell'interattività, del dialogo che c'è in rete, secondo te di sicuro non svanirà, però si ridurrà. Cioè il modello di noi seduti sul divano verso i quali arrivano le informazioni prevarrà. Sì, siamo pigri e rimaniamo pigri. Cioè, anche nella vita normale ci sono un paio di persone che sono molto sociali, ma li riconosci subito, perché parlano due ore in un'ora, nel senso, capisci? Invece noi siamo pigri e a un certo punto vogliamo che la tecnica ci usi, o che noi possiamo usare la tecnica per canalizzare l'informazione che vogliamo, però la consumeremo anche sempre in modo passivo. Attivo, ma anche passivo. Senti, tu hai detto, mi dicevi prima, stavamo facendo una chiacchierata, che è molto interessante il fenomeno I like, cioè questo pulsantino che Facebook ha introdotto e che noi a volte troviamo anche sui siti internet, anche se non è Facebook, dove noi esprimiamo un giudizio, cioè vediamo una pagina internet, clicchiamo e all'interno di Facebook qualcuno sa che a noi piace quella pagina. Oggi una cosa analoga l'ha fatta anche Google con il più uno. Magari ti faccio dire anche che cos'è questo più uno a differenza dell'I like. Allora, per quale motivo è interessante questo fenomeno? Internet e la parte social media e la parte commerciale è sempre più e più referral marketing. Significa pubblicità da parola a parola. Il valore che sta dietro il pulsante like è logico, è molto chiaro. Io ti conosco anche nel nostro network virtuale, nel nostro social network. So come sei, perché abbiamo una relazione. E trovo molto più interessante sapere quello che ti piace a te che sapere quello che gli piace a Google. Nel senso, le prime tre pagine di una ricerca di Google sono pagate e chi paga di più sta sopra. A me non mi interessa. Io so che l'informazione che trova lì è un'informazione pagata, che probabilmente può essere interessante, ma a un certo punto non più di tanto. Mi interessa molto di più l'informazione in cui c'è un valore umano dietro. Un piccolo esempio: un paio di anni fa sono andato in vacanza in Thailandia. Avevo due possibilità. Al tempo esisteva ancora Delicious, che adesso non esiste più. Delicious era, per chi lo sa, era un sito dove tutti i bookmarks venivano messi insieme. Io sono andato a cercare un bel hotel in Thailand su Google e un bel hotel in Thailand su Delicious. La differenza è logica. Google mi ha dato i risultati a Google erano i risultati più pagati, invece gli altri i risultati di gente con un'esperienza. È logico, io ho scelto per Delicious e ho trovato un hotel con un'esperienza di una persona che assomigliava a chi ero io, e su quel tipo di informazione ho deciso di prendere l'hotel lì. Questa personificazione è la stessa cosa che succede adesso con i like e con il più uno di Google. È bello vedere che Google, anche loro, adesso hanno detto: ok, noi vogliamo che sia interessante poter avere anche un tipo di valore nelle nostre ricerche umano. È un bello statement. Senti, ci hai detto una cosa che potrebbe farci allarmare. Tu hai detto che le prime pagine di Google sono di siti a pagamento, ma noi sappiamo che almeno nella parte bianca, dove non c'è scritto link sponsorizzato, in teoria Google dovrebbe fare una ricerca neutrale. Sì, ma è un po' ipocrita, perché noi le ditte spendono parecchi soldi a gente che fa SEO per fare in modo che tutti i risultati arrivino più, e i soldi che vengono spesi lì sono parecchi soldi, nel senso, ok, non sono pagati direttamente a Google, però sono pagati indirettamente per avere la posizione migliore. Non bisogna essere un po' ipocriti in quel senso lì, e non c'è niente di male, cioè è una buona cosa anche far sì che, se tu hai un prodotto e vuoi che la gente trovi il tuo prodotto, che tu ti impegni a farla ritrovare, assolutamente ok, però il valore di referral marketing persona a persona, dal mio punto di vista, è molto più interessante. Quindi tu dici Google è come che mettesse in fila i siti internet di una via, quindi in modo molto neutrale fa la fotografia di quella via. Il problema è che in quella via quasi tutti i negozi sono negozi che hanno pagato un sacco di soldi per essere su quella via principale, più o meno. Più o meno, e poi c'è anche nella via normale c'è anche la ditta che fa l'insegna molto più grande, spende tre volte tanti soldi per avere l'insegna che sia molto più come si dice, evidente, visibile. Da quel punto di vista lì le analogie sono identiche, cioè è la stessa cosa. Senti, un altro fenomeno che stiamo osservando già da qualche tempo, ma forse sta esplodendo proprio in questi mesi, è quello del geolocalizzazione collegata ai social network, cioè i social network stanno avendo tanto successo oggi grazie agli smartphone, possiamo dire al social network dove ci troviamo. Allora, un tuo parere su questo fenomeno, se effettivamente è interessante e perché è interessante? Ah, guarda, è fantastico, mi piace da matti, perché sono convinto che, e si vede anche dai movimenti nel mercato, che noi vogliamo sempre di più che il mondo online, che è molto astratto, è lì in una nuvola sopra la nostra testa e nessuno sa esattamente come cosa, si colleghi col mondo vero. Io voglio che se faccio qualcosa online ci sia una reazione nel mio mondo offline. Se questa cosa funziona, a me piace. E non solo a me, ma anche a tanta gente. Vediamo che nell'e-commerce, per esempio, Clicks and Bricks, dite che hanno un shop online e un shop fisico, lavorando insieme funziona molto meglio e hanno molto più vendite, per esempio. Il geolocating systems, o tutto quello che ha a fare con la localizzazione, è interessante perché porta l'internet a modello umano, d'uomo. A me interessa sapere cosa succede nel giro di 10 km da dove sono, non mi interessa di sapere cosa succede adesso in Cile. Geolocation dà la possibilità di filtrare l'informazione in questo modo, e la cosa è interessante perché l'informazione ce n'è parecchia, e dal punto di vista commerciale è anche interessante, perché io, come venditore di un prodotto in una strada, in una città, ho interesse di sapere chi è nei miei paraggi e quali sono i movimenti delle persone nei miei paraggi. Il momento che loro hanno intenzione di fare qualcosa con me a livello di prodotto e sono interessati, io posso iniziare un dialogo con loro e posso anche vedere come continuare questo dialogo, non solamente fisico ma anche sui social network. Stiamo un po' svagando sul tema localizzazione, però localizzazione dà tecnicamente possibilità commerciali, ma dà umanamente anche possibilità umane, nel senso, facci un esempio. Tu mi hai raccontato di una cosa, che tu vivi in Olanda, lavori, sì, in Olanda, sì, sì. Che è accaduta all'aeroporto, sì. Dove la KLM, ecco, sì. ha messo in pratica, diciamo, questo concetto che tu ci hai spiegato. Sì, bellissima questa cosa, esatto. Te l'avevo detto, cosa ha fatto? La KLM ha detto, ok, facciamo una piccola campagna, è stata una campagna un po' pubblicitaria, però hanno usato i social network, hanno guardato tutte le persone che facevano un check-in su Foursquare all'aeroporto. Cioè, queste persone hanno guardato chi erano, dove andavano, quali erano i loro interessi, guardando su Facebook, le loro pagine Facebook, oppure guardando i loro movimenti su Twitter. Quindi prendendo solo informazioni disponibili, esatto, online. Esatto, solo informazioni online, partendo da Foursquare, che è geolocated. Sanno che quelle persone erano nell'aeroporto. Poi un team di persone ha guardato cosa facevano esattamente, e prima che loro entrassero nell'aereo, un steward o una stewardess di terra ha comprato un regalino e gliel'ha portato sul posto, chiedendo alla persona dove andava, sapendo cosa gli piaceva. Il regalo aveva a che fare con uno dei suoi hobby, oppure delle cose che ha trovato su Facebook. Questi viaggiatori erano sorpresi per il fatto che la KLM venisse talmente vicino a loro con un regalo, una cosa molto simpatica, per augurargli un buon viaggio. È stata una campagna molto, molto bella e molto interessante dal punto di vista social network, perché tutte le informazioni, come hai detto tu, l'hanno tirata fuori dalla loro vita digitale e poi dato questo regalo. Quindi secondo te questo fenomeno della geolocalizzazione potrà, già oggi lo è, però probabilmente sarà sempre più un'occasione di business, quindi anche quella di offrire degli sconti o delle offerte commerciali legando il prodotto o l'offerta o l'azienda al luogo. Sì, assolutamente. E come dicevamo prima, io sono ho l'idea che in questo momento siamo in un momento stiamo scoprendo un po' quali sono le possibilità. Tante ditte adesso usano geolocation per dare sconti. Io sono di opinione che bisogna dare valore aggiunto, non bisogna dare valore a livello di sconti. In un futuro ci saranno idee anche con geolocation che daranno un valore aggiunto a quello che stai facendo. E la cosa sarebbe bellissima quando parti commerciali si agganciano a parti sociali e insieme cerchiamo di aiutare gente, cerchiamo di aiutare, di risolvere problemi che abbiamo nella nostra, nel nostro mondo, usando parti commerciali e usando parti sociali. Se riusciamo a migliorare questo mondo usando tecnologia, secondo me quello è anche il futuro di advertising. 2024. Abbiamo parlato poco fa di geolocalizzazione, un settore così importante già oggi e con prospettive di crescita così forti che questa settimana pensate che a Santa Clara in California, in piena Silicon Valley, c'è stata una conferenza che si chiama WARE 2.0 Conference. WARE significa dove e quindi è proprio una conferenza dedicata ai servizi geolocalizzati. E proprio da questa conferenza arriva la notizia più importante della settimana. Digital News. La notizia, che alcuni definiscono bomba, arriva da uno studio presentato da due ricercatori che hanno scoperto che gli iPhone e gli iPad dall'aggiornamento software versione 4 circa di un anno fa registrano la posizione dell'utente. Le informazioni relative alla latitudine, longitudine e ora dei luoghi visitati sono memorizzate in modo automatico all'interno di un file nascosto e non crittografato. Pare che questa funzione non si possa disattivare, per ora non è chiaro se e come questi dati vengano utilizzati dalla Apple, che finora non ha commentato la notizia e dovrebbe fornire risposte nelle prossime settimane. Digital News. Google invece ha risposto ai dubbi e ai sospetti analoghi su Android e ha detto che il sistema operativo ha accesso solo ai dati che il proprietario sceglie di volere fornire. Google dice che ogni dato geografico inviato ai server del motore di ricerca è reso anonimo e non può essere legato ad un, in alcun caso, ad un utente particolare. Il 25 maggio entrerà in vigore la direttiva europea sui servizi di telecomunicazione che impone agli operatori maggiori obblighi di trasparenza. Ad esempio dovrebbe essere vietata la pubblicità di velocità per le ADSL che poi non si verificano. Questo è uno dei casi. Neelie Kroes, il commissario per l'agenda digitale europea, ha detto che per ora queste regole dovrebbero bastare a garantire concorrenza e possibilità di scelta per i consumatori, ma ha annunciato l'avvio di un'analisi del mercato da parte dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche. La Kroes ha detto che potrebbe intervenire se dall'indagine dovessero emergere comportamenti esagerati da parte delle telecom. Stiamo parlando di blocco di servizi come il VoIP, il peer-to-peer, eccetera, eccetera. Digital News. Nuovo capitolo, e questa è l'ultima notizia della settimana, nuovo capitolo della battaglia legale che contrappone Apple e Samsung. L'azienda coreana ha risposto ieri alla Apple controdenunciando l'azienda di Steve Jobs per la presunta violazione di 10 brevetti. Samsung era stata a sua volta citata in giudizio per alcune soluzioni utilizzate in smartphone e tablet. Il ricorso agli avvocati, potremmo dire che è la spia della forte competizione del settore degli smartphone, dove Apple deve difendersi dalla forte ascesa di Android, il sistema operativo lanciato da Google e utilizzato da vari produttori, Samsung in prima fila. La lite tra le due aziende finirà probabilmente con un accordo, visto che Apple è, pensate, il secondo cliente del colosso coreano dopo la Sony. La Apple acquista da Samsung principalmente display LCD, chip di memoria e processori per l'iPhone e l'iPad. E queste erano le notizie più importanti della settimana. Saluto Massimo Morandi, oggi in studio con noi, il nostro esperto di telefonia mobile. Ciao Massimo, bentornato. Ciao Enrico, un saluto a tutti. Massimo Morandi, lo ricordo, dirige una redazione che realizza un po' di riviste, anche un sito internet sempre molto aggiornato, Cellulare Magazine, Smartphone Magazine e anche Netbooks e Laptops, dico bene? Dici bene. Laptops e Netbooks. Laptop e Netbook. Ok, però dovete fare anche una cosa sui tablet adesso. Sì, sì, naturalmente, cioè, ci stiamo lavorando perché i tablet, oggi parliamo di nuove tendenze del mercato, ma i tablet sono sicuramente una nuova tendenza del mercato. Senti, io ho letto questa notizia sulla quale non siamo stati molto perché mancano ancora alcune informazioni, però quello della possibilità che chiamiamoli cellulari, ma poi andrebbero chiamati smartphones, hanno di raccogliere le informazioni sul luogo dove noi siamo, sia attraverso il GPS ma anche facendo una triangolazione delle celle di telefonia mobile, in questo caso un po' meno precisa la posizione, ma insomma, ci si prende abbastanza, soprattutto nelle città dove ci sono molte celle, quindi la possibilità di triangolazione è più facile, crea una grande opportunità ma anche un sacco di problemi, perché se è vero che, e probabilmente in qualche modo è vero, queste informazioni vengono raccolte, alcuni dicono in maniera anonima, non collegata al nostro telefono, nome, cognome, eccetera, eccetera, però questo crea anche un po' alcuni problemi. Ma sai, ormai il telefonino, lo smartphone è un dispositivo digitale che abbiamo sempre in tasca, che ci segue ovunque per tutta la giornata. Però io faccio sempre, ovviamente c'è il GPS, come hai detto tu, anche senza il GPS oggi, guarda, la posizione viene tracciata con una precisione assoluta, tanto che si può addirittura trovare una persona solo con una triangolazione di rete, soprattutto in una città. In realtà, ripeto, sta nella nostra tasca tutto il giorno, raccoglie dei dati sensibili che naturalmente, se utilizzati male, potrebbero portare a grossi problemi di privacy, ma d'altra parte è quello che ci succede quasi con ogni azione quotidiana. Preleviamo al banco, ma paghiamo con la carta di credito, passiamo sotto il telepass in autostrada. Naturalmente, se tutti questi dati fossero utilizzati male, noi saremmo tracciati 24 ore su 24. Basta semplicemente lasciare il telefonino acceso sul comodino e comunque qualcuno potrebbe sempre sapere se siamo a casa o no. Sì, l'importante, abbiamo detto anche in altre puntate e probabilmente su questo tema torneremo presto, è che i consumatori vengano messi al corrente di tutto ciò. Infatti una delle accuse fatte dalla Apple, ma attendiamo le risposte della Apple, è di non aver detto nulla, cioè di fare tutto ciò in maniera automatica e anonima, in modo segreto. Dunque Massimo, oggi noi cerchiamo di fare un po' il punto del mercato raccontando che cosa sta succedendo. Ti lancio già la palla su un tema molto importante e interessante. Noi parliamo spesso di smartphone, ma non ci dobbiamo dimenticare che una grossa fetta del mercato, poi tu mi dirai quanto grossa è questa fetta, è fatta da telefonini che costano poco e che però non sono più telefonini come quelli di una volta, cioè quasi quasi si avvicinano agli smartphone, ma costano poco, 50 euro, 100 euro. Sì, beh, guarda, ci sono, diciamo che le fasce di mercato sono sempre state suddivise dai produttori in tre, quindi fascia media, fascia bassa e fascia alta. Oggi la fascia alta è diventata la fascia degli smartphone, la fascia media è diventata dei classici telefonini che si trovano, faccio sempre l'esempio dei cestoni della grande distribuzione, tu hai detto 50 euro, ma siamo a 19, 18 euro, 17,90. Telefonini, diciamo, telefonini che funzionano, fanno il loro dovere, naturalmente non hanno tutte quelle funzioni o quella multimedialità degli smartphone. E poi la cosiddetta fascia media, che se vogliamo è quella un po' più in crisi, perché quasi più. O si comprano telefonini prêt-à-porter solo per parlare e mandare sms, o si cerca qualcosa di più evoluto, e in questo caso gli smartphone. La fascia media rischia di, in qualche modo si è già svuotata, e questo per il mercato comunque è un problema, perché con la fascia media si fa valore, non solo quantità. Dunque, di questo parleremo nella seconda parte di 2024, entreremo naturalmente più nel particolare, parleremo anche di un fenomeno di cui non si parla molto, cioè dei cellulari dual SIM. In Cina, o comunque in Asia, ci sono anche i tripla SIM, quadrupla SIM, qua ci sono solo i dual SIM, anche perché i gestori non sono proprio contentissimi di questo fenomeno, che invece ha percentuali di mercato molto elevate. Abbiamo due minuti prima di salutarci, prima delle notizie di GR24, ora ci colleghiamo con Maria Chiara Grandis. Sapete che da qualche settimana abbiamo iniziato un giro dell'Italia alla scoperta della tecnologia nei punti vendita dove i consumatori entrano a contatto con la tecnologia. Maria Chiara, dove ti trovi oggi? Enrico, buon pomeriggio, oggi siamo a Cagliari e siamo al punto vendita Troni del centro commerciale Santa Gilla. Parliamo di cellulari anche qui e perciò ti dico subito che, come accennavate anche da studio, il prodotto più richiesto al momento è lo smartphone, e fra l'altro non solo da chi il cellulare lo usa per lavoro, ma anche da ragazzi più giovani che vogliono appunto utilizzarlo per stare in contatto con i propri amici sui social network, ma a sorpresa anche le persone più anziane cominciano a interessarsi a questo tipo di prodotto. Certo, lo dicevate anche voi, sono molti coloro che ancora scelgono cellulari per così dire di tipo tradizionale, soprattutto chi non ha necessità invece di avere internet sempre a portata di mano. Come dicevi anche tu, in questo momento c'è molto interesse verso i cellulari dual SIM. Lo sappiamo, in Italia ci sono più tessere SIM che abitanti, e qui tutti ci dicono che il dual SIM è più comodo. In sostanza si preferisce tenere un solo telefono in tasca piuttosto che averne due. Allora sentiamo cosa ci hanno detto i consumatori. Stavo guardando i dual SIM perché in effetti possono essere molto utili, visto che ormai ognuno di noi abbiamo quasi tutti due SIM con due telefoni da portare in giro. Quindi dual SIM? Sì, per i privati e per il lavoro. una. Lo usi per lavoro o per motivi personali? No, per motivi personali. Quindi dici che forse la dual sim è più per chi lo usa anche per lavoro? Sì, certo. Dual sim o una sim? Una, un numero solo, è già troppo uno anche. Mi piacerebbe con due sim, perché ho due telefoni, però adesso insomma vediamo un po'. Ci colleremo anche più tardi con Maria Chiara Grandis da Cagliari. Sono le 15:56 minuti, tra poco le notizie di GR24. Aspettiamo le vostre chiamate. Oggi parliamo di smartphone. 800 24 0024, gli sms 349 238 6666. A tra poco. 2024. Riprendiamo, questa è la seconda parte di 2024, io sono Enrico Pagliarini, saluto Massimo Morandi con me oggi, il nostro esperto di telefonia mobile, direttore di Cellulare Magazine. Ciao Massimo, bentornato. Ciao Enrico. Dunque, il nostro numero verde, lo ripetiamo, è 824 0024. Sono arrivati alcuni messaggi, però come sempre preferisco sentire la vostra voce. Potete chiamarci anche dai vostri telefonini, il numero verde è gratuito per tutti e a volte ci fanno gli ascoltatori questa domanda. Vi aggiungo una opzione, cioè quella dell'email, se volete scriverci 2024@radio24.it. Siamo presenti anche su Facebook, potete cercare la nostra pagina, è scritta non in cifra in questo caso, per esteso, 2024 su Facebook, ma non lo possiamo utilizzare perché si vede che qualcuno ha un po' esagerato, allora nei nostri studi Facebook è bloccato. Dunque Massimo, a proposito di Facebook e a proposito di social network, visto che abbiamo parlato poco fa dell'esplosione ma anche del ridimensionamento possibile e imminente, almeno questa era la tesi di Christian Esser, che io tra l'altro condivido. In ogni caso, questo boom, questo fenomeno sta coinvolgendo anche i cellulari con fenomeni particolari, cioè ci sono anche dei cellulari fatti e pensati proprio per i social network. Sì, devo dire che i social network in Italia, soprattutto Facebook, adesso un po' più Twitter e Foursquare, ma Facebook soprattutto, i social network, dicevo, sono stati una delle spinte fondamentali nello sviluppo del mercato degli smartphone. Perché? Beh, naturalmente tutti hanno cominciato a utilizzare Facebook dal computer di casa, però si sono accorti molto rapidamente che aggiornare il proprio stato, parlare con gli amici, in qualche modo chattare e pubblicare le proprie foto, aggiornare la propria bacheca, ha molto più senso in mobilità che davanti a una scrivania, perché quando a noi manca il contatto con la nostra comunità, con i nostri parenti, con i nostri amici, quando siamo in giro, non quando siamo a casa o quando siamo in ufficio, dove comunque siamo immersi in una comunità, che sia di lavoro professionale o personale. Ecco che le aziende l'hanno capito al volo, hanno cominciato a inserire non tanto la possibilità di avere Facebook sul telefonino, ma l'hanno fatto trovare preinstallato sui principali smartphone. Ora è preinstallato praticamente quasi tutti i modelli, la stessa cosa si dicasi per Twitter, un po' meno per Foursquare, che però può essere scaricato gratuitamente in pochi secondi. Ed ecco che, tu hai appena detto, a noi hanno bloccato Facebook. In tantissime aziende Facebook è bloccato, perché molti dipendenti spendevano un po' troppo tempo davanti al computer per chattare piuttosto che per lavorare. Ecco che gli smartphone hanno comunque aggirato questo blocco, perché con le tariffe dati flat ormai con 9 euro al mese a disposizione di tutti, oggi si chatta anche nelle aziende e si consulta Facebook, si aggiorna il proprio stato con il proprio smartphone. Quindi tu dici, se tua azienda mi blocchi Facebook, io trovo l'escamotage, cioè uso il mio cellulare, il mio smartphone. Ti assicuro che funziona così veramente in tante aziende. Senti, a proposito di smartphone, questo, scusa, per dirti che ormai la tecnologia, comunque dei trend così forti, spesso si chiude un buco ma se ne aprono due, ecco. Senti, a proposito di smartphone, visto che oggi vogliamo fare anche il punto della situazione, partiamo da diciamo il sistema operativo che attualmente ha una quota di mercato più bassa ma che in prospettiva potrebbe crescere, usiamo il condizionale perché non si sa quello che succederà. Nokia ha fatto un accordo con Windows, cioè con Microsoft per Windows Phone, visto che la firma definitiva è stata fatta questa settimana, diciamo quello che potrebbe accadere, cioè quello che accadrà diciamo in termini di prodotto, poi vedremo come quote di mercato cosa succederà nei prossimi mesi, entro la fine di quest'anno. Ma ripeto, è difficile fare le previsioni, chi ci tenta ha tutta la mia ammirazione. Può sbagliare, però che cosa, diciamo, in termini di prodotti cosa succederà? Per quanto riguarda Microsoft e Nokia, sì. Allora, naturalmente questo è il grande accordo. Tutti aspettano il primo Nokia con la piattaforma Microsoft. Arriverà con molta probabilità per Natale, se saranno bravi, o per i primi mesi del 2012. Ma io penso che per Natale ci sarà qualche sorpresa. E secondo me le sorti del sistema operativo e di Nokia sono veramente legate alla riuscita di questo accordo, perché naturalmente tanti continuano a dirci e a chiederci in redazione: ma come faccio? Prendo un Symbian, tra l'altro ci sono degli smartphone nuovi appena usciti come l'S7, il lancio di Nokia. Io da questo punto di vista mi sento di essere molto tranquillizzante, perché Symbian non scomparirà, questo è bene dirlo. Sarà integrato su smartphone di fasce più basse, probabilmente la media, poi in un secondo tempo la bassa, ma lo sviluppo continua, anche perché l'attività di Nokia deve continuare, non può certamente attendere il 2012. Tra l'altro, proprio in questi ultimi mesi, devo dire, gli aggiornamenti sono stati piuttosto puntuali, quasi a voler lanciare un messaggio agli utenti: ci siamo e continueremo a seguire lo sviluppo dei prodotti. Però diciamo, per fare concorrenza a iPhone e a tutti i cellulari, gli smartphone con Android, Nokia andrà su Windows Mobile, quindi quella è la scelta. Quella è la scelta di fascia alta. Senti, a proposito di fascia alta, visto che è la fascia di cui si discute più spesso, anche perché le novità, l'innovazione arriva proprio sugli smartphone, il mercato sostanzialmente è diviso in due grandi famiglie, cioè iPhone e il sistema operativo, che è solo di Apple con un prodotto ben definito, e una lista lunghissima, non so quanto lunga sia, di smartphone che hanno Android, giusto? Giustissimo. Se vogliamo, infatti in passato con le definizioni rigide di smartphone, l'iPhone non sarebbe neanche potuto essere definito uno smartphone, no? Perché comunque oggi invece naturalmente è definito smartphone l'iPhone, il BlackBerry e tanti altri. Certo, Android sta andando su tantissimi dispositivi. Questo è la sua forza, ma potrebbe anche rappresentare la sua debolezza. Perché? Perché naturalmente molti utenti cominciano a dirci: beh, però dopo tutto i telefoni sono tutti uguali. Questo è il rischio più grande che secondo me le aziende hanno perfettamente davanti a loro e che eviteranno, ma la piattaforma è quella, poi la si può comunque arricchire quanto si vuole, ma la base di partenza è questa. La stanno adottando in tanti, costa poco integrarla, ha un buon market che sta crescendo, quindi anche la parte di applicazioni sta diventando interessante. Ecco, spieghiamo che cos'è il market. Ma il market è un negozio digitale dove si possono acquistare applicazioni di tutti i tipi che arricchiscono, personalizzano il proprio telefono. Senti, questa differenziazione del mercato crea anche dei problemi, perché se io acquisto applicazioni per il sistema operativo dell'iPhone, poi non le posso utilizzare per Android. Viceversa, se compro applicazioni per il mio telefono Android, in un secondo momento, se cambio telefono, non le posso utilizzare per quel telefono. Infatti il market, i negozi virtuali, dal punto di vista di chi gestisce queste piattaforme, ma anche dei produttori, dovrebbero essere l'elemento che dovrebbe servire a legare a sé i consumatori, perché comunque quando tu hai acquistato tanti software che possono essere le previsioni del tempo, la lettura dei giornali o addirittura un giornale intero, se quando deciderai di cambiare cellulare probabilmente ti indirizzerai magari non sullo stesso marchio, ma sicuramente sulla stessa piattaforma. Questa è la grandissima forza dell'iPhone. Certo, diciamo, da un certo punto di vista legare, potremmo dire anche ingabbiare il consumatore. Io ormai sono legato a quella piattaforma e continuo su quella piattaforma. Va bene, adesso ci sono le informazioni sul traffico. Riprendiamo tra poco, sentiremo anche alcuni ascoltatori, perché visto che abbiamo annunciato come tema i dual SIM, tra poco parleremo proprio di questo. Ci sentiamo tra un minuto. Numbers 2024. Numbers. Gli italiani passano più tempo al telefono cellulare o a quello fisso? Numbers 2024. Vi abbiamo domandato: gli italiani passano più tempo al telefono cellulare o a quello fisso, all'interno della nostra rubrica Numbers. Allora, a proposito di numeri, diciamo subito che dati 2009 ancora un po' vecchi ma indicativi, quello è l'anno in cui i minuti di conversazione al cellulare hanno superato quelli dal telefono fisso. Fatto il conto di tutti gli italiani, siamo a 113 miliardi contro 103 miliardi e la cosa sicuramente è solo cresciuta. Saluto Alberto che ci telefona da Pordenone. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Allora io volevo parlare del dual sim, dicendo che insomma sono molto utili, però da quello che ho potuto vedere io, i vari telefoni cellulari che mettono a disposizione sono di scarsa qualità, o meglio, diciamo che le grandi marche non si sono mai esposte su questo terreno e ci sono marche diciamo sconosciute, soprattutto made in Cina, diciamo, che arrivano dai paesi dell'est, che sono di scarsa qualità sia come fattura che come audio che come video, insomma. Alberto, lei o tu hai un cellulare dual sim? No. Io non ce l'ho appunto per questo motivo, perché per quanto sia utile, se potesse essere integrato in un cellulare che ne so HTC piuttosto che iPhone piuttosto che un altro, sarebbe più allettante. Tu dici, ma non ti fidi tanto di questi brand. Prendere un cellulare dual sim solo per la dual sim, per poi avere un cellulare che si crepa, che non riesco a sentire, che balla, che tutto quanto, preferisco avere due cellulari o tenermi una sim sola, ecco. Grazie Alberto. Francesco da Venezia, buongiorno Francesco. Buongiorno a voi. Allora, io innanzitutto vorrei anticipare che concordo con Alberto la sua osservazione sui dual sim, che non è ancora a un livello accettabile per chi ne fa un uso frequente di doppio numero, diciamo. Però volevo anche segnalare che io l'anno scorso a Tokyo avevo visto in uno stand, ma non so se era cinese o meno quel brand, un dual phone, praticamente un fronte retro con due display e due tastiere. E questo qui mi ha molto incuriosito e poi non ho più visto nessun seguito a questo modello. E sarebbe la soluzione ideale sicuramente. Poi, quindi lei dice non solo dual sim, cioè per passare da un contratto all'altro, ma addirittura proprio due telefoni attivi sulla stessa macchina, uno da una parte e uno dall'altro. Esatto, dual phone, fronte retro, che si interagiscono e mi dà il segnale di chiamata sull'altro verso, e io quando vedo questo giro il telefono, vedo chi è, magari mi giro e interrompo oppure metto in attesa. Però questo è una cosa che mi incuriosiva, poi non ho più sentito parlare. Adesso ripescavo questo discorso sentendo che si è aperto questo dibattito, infatti non ha mai avuto grande risalto questa cosa. Sì. Poi volevo dire un'altra cosa, ho visto anche un altro modello con l'auricolare che si infila come una pennetta dentro il telefono e si carica tramite la batteria del telefono, molto sottile, anche quello un modello che poi non ho più visto, che speravo che arrivasse sul mercato. Infatti l'auricolare per noi Bluetooth, innanzitutto quel modello si autoconfigura con quel telefono, non serve staccarlo, metterlo sotto carica e avere due apparecchi da caricare, si interfaccia col telefono direttamente. Senta Francesco, una curiosità, lei a Tokyo ci è andato perché si occupa di questo settore oppure passava per altro? No, io, mia moglie è giapponese, quindi siamo spesso in Giappone, io sono amante dell'elettronica, quindi mi reco spesso ad Akihabara, e quella città dell'elettronica dove si trova. Lei sa che il Giappone è un altro mondo per quanto riguarda i telefoni cellulari, però giustamente lei dice, perché se una cosa è positiva, ben fatta e funziona, perché non prenderla anche sul nostro mercato? No, l'ultima osservazione, poi vi lascio, e altra cosa, noi sempre più spesso usiamo i telefonini come telefono di casa, con delle SIM a basso costo, sia nel ricevere che nel chiamare. Perché non mettere in commercio dei cordless che alloggiano delle SIM? A questo punto, visto che noi usiamo sempre più spesso questa soluzione, piuttosto che una rete fissa che è molto cara come Canon e tutto quanto, se avessi dei cordless da interfacciare ai tre piani di casa mia con un'unica SIM che collegano tra di loro, sarebbe una cosa ottimale. Basta, questo è il tutto. Grazie molto Francesco, buona giornata. Buona Pasqua, lo dico a tutti gli ascoltatori una volta, così non lo ripeto tutte le telefonate. Dunque, saluto, ma poi vorrei dare la parola a Massimo Morandi, Flavio Ferraro, che è country manager di Alcatel One Touch. Benvenuto, grazie Ferraro. Buonasera a voi tutti. Allora, adesso do la parola a Massimo Morandi, poi se vuole commentare, rispondere ad alcuni ascoltatori è libero di farlo tra poco. Tu Massimo annuivi, sì, perché allora, insomma, sapevi, hai le risposte. No, no, ma perché sono tutte, tutte obiezioni molto interessanti. Allora, iniziamo da Alberto. Secondo me bisogna fare due osservazioni. La prima, lui si lamentava della scarsa qualità sì, dei dual SIM. La verità è che c'è ancora molta confusione sul mercato, perché dal punto di vista della produzione c'è una netta differenza tra quello che proviene dalla Cina e che comunque si trova sui banconi della grande distribuzione, nei negozi, e invece rispetto a quello che viene, non dico fatto qui, naturalmente non prodotto qui, ma distribuito qui e garantito qui. Garanzia, parliamo di 24 mesi. Questo fa la differenza, quindi quando si parla di scarsa qualità dei dual SIM, oggi si dovrebbe cominciare a differenziare le case come NGM, Honda, ITD Mobile, Alcatel, che comunque sono qui, sono presenti, garantiscono. Però è vero che la percezione di questi marchi non è la stessa che uno ha dei brand tradizionali, per tradizionali, più grandi. Beh, uno perché comunque alcuni marchi sono proprio nuovi o comunque sono arrivati da pochi anni, e comunque la confusione sugli scaffali c'è ancora. Il problema per cui le grandi case, è stato fatto un nome di HTC, io posso dire aggiungiamo Nokia e tanti altri, non si sono ancora affacciati su questo mercato in Italia. In Italia, perché soprattutto, Nokia, ad esempio, è dovuto ancora a un potere importante sulla fetta di mercato detenuta dagli operatori, che vedono di pessimo, non di cattivo occhio, di pessimo occhio i dual SIM. La motivazione a oggi, considerata anche la quota degli operatori che si sta comunque chiudendo mese dopo mese, mi sfugge, perché ad esempio in Francia Orange con un dual SIM e con una sua doppia offerta ha diciamo sistemato alcuni consumatori facendoli parlare a una tariffa particolare nel mondo professionale e a una tariffa particolare di sera nei weekend. Quindi questo non vuol dire che un dual SIM possa rubare quote a un operatore piuttosto che un altro. Senti, una curiosità, un ascoltatore diceva l'auricolare inserito nel telefono. Io non ho capito nulla. Allora, guarda, io il telefono, naturalmente poi in Giappone poi ho visto di tutto. Io un telefono di questo genere l'avevo visto l'anno scorso a Barcellona, non era naturalmente esposto, era un LG con la possibilità di aveva diciamo sulla parte posteriore rispetto a dove c'è il display, dove spesso adesso ci sono le fotocamere, aveva un piccolo slot dove si infilava una cuffietta, si poteva sfilare e mettersi all'orecchio. Ma la cosa bella era che infilando la cuffietta nel telefono e mettendo il telefono in carica si caricava sia la cuffietta sia il telefono. Questo cellulare non è mai stato messo sul mercato perché non era piaciuto all'operatore per cui era stato portato in Italia. Eccolo lì, di nuovo l'operatore che mette il bastone tra le ruote. Tra poco sentiamo Alessandro da Savona, però prima Flavio Ferraro, country manager di Alcatel One Touch. La prima cosa che vorrei domandarle è, noi stiamo parlando di una nicchia di mercato, sì, no, e soprattutto grande quanto? Perché effettivamente io, parlando con Massimo Morandi, più di una volta mi sono stupito delle quote di mercato che i telefoni dual SIM hanno in Italia. Ferraro. Ma sì, in effetti sono state dette tutte cose molto vere. Il mercato del dual SIM è iniziato un po' lentamente, era una nicchia, quindi una piccola nicchia dove evidentemente è vero quello che è stato detto precedentemente, marchi sconosciuti hanno colto l'opportunità, ma ormai è una nicchia che sta diventando un segmento che per il 2010 si stima di poco inferiore a 1 milione di unità vendute in Italia, con un prospettiva di crescita 2011 di 1,5 milioni, diciamo, quindi in crescita. È chiaro che stiamo parlando di valori importanti, ma comunque relativi a un mercato totale italiano di circa 20 milioni di pezzi, quindi sì, un segmento, ma ancora non così rivoluzionario come ad esempio può essere rappresentato dall'Android. Ma per quanto ci riguarda, noi siamo partiti da una considerazione molto semplice: in Italia ci sono un totale SIM card attivi di circa 92 milioni di SIM card rispetto a una popolazione di 60 milioni di abitanti. Quindi voglio dire, facendo un semplice calcolo, c'è una penetrazione di 150%, quindi vuol dire che al di là della disponibilità o meno di prodotti dual SIM, il mercato si è già autoregolato, quindi anche nelle interviste più di una persona usa due telefoni per ragioni personali / professionali e così via. Da parte nostra noi ci siamo resi conto di questa evoluzione, di questo cambiamento, e quindi abbiamo incominciato dalla fine dell'anno scorso, più o meno settembre, a introdurre nuovi modelli sulle nuove piattaforme che abbiamo reso disponibile con la possibilità del dual SIM. Quindi per noi è interessante, allarga oltretutto le nostre possibilità. Senta, all'accusa, accusa, considerazione fatta sulla qualità, perché uno dice sono di fronte a marchi in alcuni casi sconosciuti, il vostro non è proprio sconosciuto, però sicuramente non fa parte di quei 3, 4, 5 nomi che vengono sempre citati. Come risponde? Ma risponde che HTL è sul mercato della telefonia cellulare dagli albori. In Italia siamo presenti circa da 12 anni. Un marchio significa un insieme di fattori, fra cui anche rispetto alla propria clientela, la qualità. Quindi lei dice non è vero, Massimo? No, è vero, è vero quello che ha detto l'ascoltatore prima, ma relativamente al fatto che in passato, non essendoci ancora costruttori di prima classe in questa cosa, sono stati importati i prodotti di qualsiasi tipo di marche, non sicuramente, sì, come diceva Morandi, di persone, di aziende, di marche, invece in Italia sono presenti con le loro forze, le loro realtà, il loro supporto e così via. Massimo. No, io pensavo anche che poi quando si parla di qualità, a prescindere dai marchi, io penso si debba anche guardare e osservare attentamente la fascia di prezzo. Ovvio che se spende 59 euro naturalmente, o anche molto meno, quindi questa è una fascia, come diceva Ferraro, nuova. Poi probabilmente io sono assolutamente convinto che ci sarà anche l'invasione della fascia media. Sì. Sentiamo Alessandro che ci telefona da Savona. Buongiorno Alessandro. Sì, ciao Enrico. Io ti ascolto sempre in podcast e ne approfitto dell'unica giornata in cui ti ascolto in diretta per intervenire. Bene, fatto benissimo, grazie. Niente, volevo portare la mia testimonianza perché ti sto chiamando con un trial sim. Sono già andato oltre il dual. Dove l'hai trovato questo trial sim? Ovviamente su internet. Provenienza cinese ovviamente, però per quello che mi serve va benissimo, è un trial standby ovviamente, non sono attive contemporaneamente in trasmissione e ricezione, ma a me non serve, costa 50 euro e tiene tre sim attive contemporaneamente in ricezione. Spiego questa cosa, Massimo correggimi se sbaglio, queste tre sim nel caso di questo telefono dice standby, cioè vuol dire che se devo essere io a passare da un profilo all'altro? No, significa che si può, le tre sim sono attive ma se ne può utilizzare solo uno alla volta, nel senso che in questo momento il nostro ascoltatore è in conversazione, se qualcuno lo chiama trova spento o trova il messaggio di segreteria telefonica. I full active sono due sim sempre attive, significa tu sei in conversazione, qualcuno ti cerca, hai l'avviso di chiamata e puoi fare switch da una conversazione all'altra. Alessandro, leggo che tu attendi un 4 sim, cioè vuol dire che l'hai già ordinato? No, vuol dire che l'ho visto su internet che sul sito del produttore di questo telefono esiste già il quadri sim. Come si chiama questo produttore, diciamo? Non me lo ricordo. A proposito di brand poco. Assolutamente. Quindi tu sulla scarsa qualità di questi telefoni cosa ci dici? Non sono d'accordo, nel senso che l'unico difetto che posso trovare in questo telefono è la scarsa durata della batteria, perché mi fa una giornata la fa, però chiaramente ogni giorno lo devo caricare. Certo, dice... Per il resto la qualità di trasmissione per me è accettabile, le tre sim, infatti non vedo l'utilità dell'altro modello, quindi del full active, adesso non mi ricordo come si dice, perché ovviamente tanto quando uno telefona su una sim non può telefonare contemporaneamente. Un'ultima curiosità, hai tre sim di tre operatori diversi o no? In realtà ho due operatori diversi, ho due sim di un operatore e una sim di un altro. E poi ho anche un altro telefono, perché questo chiaramente essendo un telefono da 50 euro serve solo ed esclusivamente per telefonare, già inviare i messaggi non è proprio pratico, ma questo non mi interessa. Poi ho un altro cellulare che uso quasi esclusivamente per andare su internet e niente, poi prima o poi lo sostituirò con un piccolo tablet. Alessandro, ti ringrazio, speriamo di risentirti in una prossima puntata in cui tu abbia la possibilità di ascoltarci dal vivo, se no appuntamento sempre in podcast. Al podcast. Grazie e buona giornata e buona Pasqua. Dunque, adesso c'è la pubblicità, ci fermiamo per qualche minuto, riprendiamo tra poco perché dobbiamo rispondere ad alcune domande, ma aspettiamo anche altre telefonate al nostro numero verde 824 0024. 2024. Le 16:32 minuti, questa è 2024, oggi dedicata a smartphone, ma anche a un fenomeno di mercato che Massimo Morandi con la sua redazione su Cellulare Magazine ha definito l'avanzata dei dual SIM. Massimo, se dovessimo guardare al mercato, quanti sono i marchi e i telefoni? Cioè, stiamo parlando di una manciata di modelli o ce ne sono già un bel po'? No, ce ne sono già un po'. I marchi sono 4-5. Diciamoli. Beh, sì, sono. Sono sconosciuti. Naturalmente. Diciamo. Beh, sono cominciano ad essere conosciuti, perché comunque NGM, Honda, ITT Monaco, Alcatel, Enicool. Ho naturalmente citato i marchi che sono reperibili nei negozi italiani, ma che danno anche assistenza ai consumatori in caso di guasti. Perché poi il problema è questo, no? Si possono comprare 3 SIM, 4 SIM, e devo dire che ci sono in rete, certe volte viene veramente la voglia di acquistare delle chicche tecnologiche che qui nessuno ha portato. Se poi succede qualcosa, il rischio è di buttare il cellulare nel cestino. Questo è bene che comunque gli utenti che decidono di fare questo acquisto lo sappiano. Maria Chiara Grandis, in diretta da Cagliari. Allora, raccontaci che cosa stai vedendo, ma soprattutto le chiacchierate che hai fatto poco fa, che sentiremo tra poco. Enrico, perché parlando di telefoni cellulari, qui ci dicono che in questo momento il settore funge un po' da traino, diciamo così, del mercato della tecnologia di consumo, e quindi per parlare di questo abbiamo intervistato il direttore del punto vendita, che è Fabiano Podda, e la sua è la prima delle interviste che sentirete. Poi abbiamo sentito anche Maurizio Ularju, addetto alle vendite del settore telefonia, che ci dice anche qualcosa di più sugli accessori. Sentiamo. La tendenza sì è un pochino quella dello smartphone, però non soppianta poi del tutto la vendita del telefono poi tradizionale, perché mediamente, diciamo, l'acquisto di un telefono varia, siamo sui 100-150 euro. Lo smartphone, quindi i nuovi cellulari, stanno un po' prendendo il posto di altri prodotti, le fotocamere digitali piuttosto che il navigatore satellitare, l'iPod? Ci si sta arrivando, sì. I telefoni cellulari, visto che si cambiano spesso, vengono rottamati? La rottamazione viene vista ancora quasi esclusivamente per i prodotti che creano ingombro. Il cellulare invece viene visto come qualcosa che può essere comunque riciclato, però all'interno per esempio della famiglia. È un settore di mercato su cui puntate? Sì, senz'altro è in crescita. Oltre all'acquisto del cellulare poi c'è tutta una sorta di accessori. Carica batterie, micro SD, ormai l'espansione di memoria è comune a quasi tutti i cellulari. Quindi la cliente la cerca più che altro queste cose. E cover soprattutto, custodia in silicone, in pelle, finta pelle. Per gli smartphone la pellicola è fondamentale per proteggere il display. La pennetta è un accessorio che viene richiesto? Abbastanza, sì. Quando un consumatore viene qui, che cellulare chiede? Cercano prodotti con processori veloci, con un touch abbastanza fluido e poi sistemi operativi aperti che permettono l'installazione e di applicazioni anche di terzi che non siano vincolati alla casa madre. Vi chiedono supporto per la manutenzione dello smartphone? Di solito per l'aggiornamento del software se ne occupano i clienti stessi. Le batterie dello smartphone durano? Gli ultimi prodotti montano batterie sempre più grandi, quindi sempre più durature. Magari non durano come un telefono normale. Se la batteria dura un giorno completo è già buono, perché si suppone che il cliente utilizzi il telefono, poi quando è a casa lo metta in carica la notte. Qual è la caratteristica che per i consumatori non può mancare in un telefono cellulare adesso? Al momento è il wifi, che permette di connettersi a internet non sfruttando la connessione col gestore, ma tramite un router, una DSL di casa, molto molto comodo. Ha ragione, se la batteria dura una giornata va molto bene, perché questo è uno dei problemi degli smartphone. Interviste realizzate da Maria Chiara Grandis al centro commerciale Troni di Cagliari, col quale ci siamo collegati. Ci torneremo anche più tardi per sentire altri consumatori. Flavio Ferraro, country manager di Alcatel One Touch, diciamo una cosa, mi piace sempre raccontare anche il backstage dei marchi. Voi non siete, come io pensavo e forse alcuni ascoltatori pensano, francesi. Lo eravamo. Alcatel è un'azienda che fa telecomunicazione prevalentemente nell'area delle infrastrutture. Nel 2004-2005 è stata fatta una joint venture con un gruppo cinese il cui nome è TCL, è un'azienda che fa consumer electronics a 360 gradi, TV, condizionatori, telefonia e così via. Per cui dal 2005 il marchio Alcatel è passato con le sue competenze, la sua storia e tutto il resto nelle mani di TCL. Oggi siamo un'azienda quotata alla borsa di Hong Kong, per cui ognuno può ha la possibilità di verificare i nostri risultati, ma al di là di questa, che è una definizione, se vogliamo, più finanziaria, quello che è successo in questi anni, e credo siamo abbastanza un caso unico, siamo riusciti a integrare due mondi, due mentalità, due culture, cioè l'Occidente con l'Oriente. Oggi la nostra è un'azienda che ha management ai più alti livelli, misto europeo, cinese, ad esempio, non so, potrei citare che il nostro direttore della qualità in fabbrica è un francese ex Alcatel, così come potrei citare che la nostra designer del prodotto è un'italiana. Quindi per fortuna. Siamo riusciti a dare un senso positivo alla parola globale. Senta Ferraro, lei ha sentito, o non so se voi avete in progetto un telefono, come prima ci diceva l'ascoltatore che ha visto in Giappone, un dual phone, cioè con non solo due SIM, ma proprio due telefoni, uno sopra l'altro, con due display, eccetera, eccetera. No, non abbiamo in programma niente di questo, cioè, diciamo che è possibile fare qualsiasi cosa, però dopo alla fine bisogna fare i conti con la realtà, la dimensione del mercato, e poi fare un doppio telefono come questo, alla fine significa fare una cosa doppia per dimensione, peso e costo, quindi direi che sono cose un po' isolate. Massimo Morandi. Allora, ITTM Monaco ha messo sul mercato lo Janus, quindi, che prende il nome dal Giano, no? Bifronte. Sì. E in pratica all'interno di una scocca dual SIM c'è un telefonino monosim con due facce, quindi diciamo se qualcuno è interessato, anche questa stranezza è comunque presente sul nostro mercato. Non ho capito. Dual SIM o mono SIM? No, alla fine le SIM sono tre, perché una scocca ne ha due e l'altro telefono ne ha una sola. Ah, quindi tre SIM si ottiene con l'utilizzo di due corpi, e di cui uno è integrato nella scocca dell'altro, che è più grande. Che cose strane. Sai, è fatto perché comunque più si aggiungono SIM, comunque più si aggiungono criticità alla costruzione di un cellulare, quindi antenne, processori, quindi aumenta anche il rischio di fragilità, sì, dell'apparecchio. Andrea da Pavia, buongiorno. Buongiorno, io ho un dual SIM, una Pantech. E sta parlando col dual SIM? Sì, tramite l'auricolare. Perché allora facciamo così, riproviamo a chiamarla, tolga l'auricolare. Guardi, perché qual è il problema? Si sente malissimo, questo è il problema. L'abbiamo verificato. Questo volevo dirvi. Tolga l'auricolare, magari proviamo a richiamarla, okay. se si sente bene. Sentiamo Riccardo da Ferrara, buongiorno. Buongiorno, ho sentito un po' i discorsi che avete fatto su due SIM. Premetto che io lavoro in una multinazionale di elettronica abbastanza famosa italiana, e abbiamo fatto un po' delle prove su sostanzialmente questi telefoni, che voi parlate di dual SIM. Ho visto sostanzialmente dei difetti. I difetti, il primo è la scarsa autonomia, che comunque ha già citato un altro utente, insomma, della trasmissione. Diciamo che il panorama è ormai fatto purtroppo di telefoni che siano smartphone o altro tipo che hanno scarsa autonomia in generale. Sì, sì, però un'altra cosa, certo, dovuta alla velocità dei processori che sono sempre più veloci. La seconda cosa degli smartphone, che secondo me non sono tanto smart da questo punto di vista, è peggiorata notevolmente la ricezione del segnale, e questo è dovuto probabilmente a tutta l'elettronica che gira intorno a questi telefoni. Nessuno ne ha parlato, però in realtà già anche l'iPhone ha questi problemi da tempo. Se qualcuno può dire una propria opinione in merito a questa cosa, sarei felice. Sì, insomma. Sì, sì, Riccardo. Questo è il mio intervento. Grazie molte, è corretto, corretto. Dunque, lei, Ferraro, prima ha citato, e così passiamo anche al mondo degli smartphone più in generale, lei prima diceva la vera rivoluzione è Android. Perché la definisce una rivoluzione? Quando alcuni definiscono una rivoluzione l'arrivo dell'iPhone, che diciamo ha cambiato un po' le regole del gioco, e da lì si è ridisegnata la definizione di smartphone. Ma io direi che di iPhone si parla parecchio, però la realtà poi sta nei numeri. Già a livello mondiale oggi Android da aprile ha superato Apple, ma di là del sorpasso quello che più conta è la tendenza. Android sarà il sistema operativo dei telefoni cellulari, con una nicchia rappresentata da Apple o da altro. Vorrei fare quasi un parallelo al mondo dei computer. Secondo me Android sta ai telefoni come Windows sta ai computer portatili, quindi una diffusione planetaria, numeri grandissimi, e soprattutto telefoni che, partendo inizialmente da un'offerta che era solo della fascia medio-alta, come si diceva prima, pian piano diventano sempre più consumo con dei prezzi sempre più accessibili al grande mercato dei grandi volumi, con tutto l'impatto che poi ne consegue sul fatto dell'offerta di applicazioni, servizi e cose di questo genere. Sì. Quindi credo, questa è la ragione per cui ritengo più Android una rivoluzione che non altro. Ecco. Massimo, tu hai anche dei numeri a supporto di questo, perché anche gli analisti di mercato ci dicono quello che di fatto anche Ferraro, insomma, ci disegnava per il futuro. Sì, ha provato Gartner a leggere il futuro degli smartphone. Tanto per capirci, sempre secondo Gartner, oggi su ogni 100 telefonini venduti, ogni 100 smartphone venduti dovrei dire, 37 più o meno sono Symbian, 22, 23 sono Android, 16 sono RIM, quindi stiamo parlando di BlackBerry, 15, 16 sono iPhone, 4, 5 sono Microsoft. Loro hanno provato a fare una proiezione al 2015, dove, come vedi, tutto viene rovesciato. Sempre su 100 telefonini, secondo Gartner, 48-49 saranno Android, stiamo parlando di 1 su 2, quindi 11 BlackBerry, 17 iPhone, e quindi qui vediamo una tenuta sostanziale del discorso Apple, e 19 o 20 Microsoft, quindi qui in questo caso si legge un successo dell'operazione di Microsoft. 0,1 saranno Symbian. Io a questo dato personalmente non riesco a credere, ritengo che naturalmente ci sarà un terremoto tra le piattaforme, ma che forse non sarà così netta. Quando parliamo di 50 telefoni su 100 Android nel mondo, parliamo di 500 milioni di pezzi. Sì. Anche se il 2015 è vicino, ma possono succedere molte cose, l'abbiamo già visto anche in passato. Esatto, con la tecnologia è difficilissimo fare delle buone previsioni. Usare prudenza è bene, per questo che io non credo mai a queste ricerche. In ogni caso è giusto citarle, giusto per avere un'idea. È pur vero che già oggi in alcuni mercati, negli Stati Uniti in modo particolare, i telefoni, tutta la gamma di telefoni Android ha superato come quota di mercato Apple. Apple è molto brava a fare business, perché i dati di mercato di questa settimana, che sono stellari, lo confermano, e uno dei vantaggi del vendere un tipo di telefono che costa anche molti soldi è avere magari una quota di mercato non elevatissima, ma in termini finanziari, monetari, invece una quota di mercato molto molto elevata, quindi una marginalità molto molto buona. Sono le 16:44 minuti, l'informazione per chi viaggia, immagino che ci siano più persone rispetto a un sabato classico, riprendiamo tra poco. 2024. Una delle domande che più spesso ci facciamo e ci fate è come orientarsi in un mercato dove più di un produttore ha un Android. Cioè, Massimo, vorrei capire, comprare un telefono con Android, se io compro un marchio piuttosto che un altro, compro la stessa cosa, cioè come si trovano le differenze? Cioè non c'è anche il rischio che tutti siano uguali? Ma sì, come dicevo prima, il rischio naturalmente c'è, però questo l'hanno capito anche le aziende, che hanno fatto una cosa secondo me molto intelligente. È ovvio che dietro una piattaforma c'è comunque sempre un marchio, e questo in qualità costruttiva, in visione, in design, può e deve fare la differenza. Ma c'è un'altra differenza sostanziale: le aziende hanno cominciato a integrare sulla piattaforma Android delle proprie interfacce utente. Cosa sono? Sono delle interfacce grafiche, perché poi alla fine ogni sistema operativo porta a fare le stesse cose su un telefono, ma lo strumento è completamente diverso, e la facilità con cui si fanno certe cose e con la quale si gestiscono determinate funzioni, che poi fanno la differenza quando il telefonino è fra le mani di un utente. E allora hanno creato delle loro interfacce per rendere il funzionamento più personalizzabile, il più semplice possibile, e anche il più bello, perché poi alla fine chi spesso fa la piattaforma ha il compito di svilupparla, ma non pensa poi a sviluppare tutte le altre cose che poi sono vincenti sul mercato. Ecco perché HTC ha creato la sua Sense, c'è il TouchWiz di Samsung, ne potrei citare tante altre che magari non si conoscono tanto per il nome, ma poi per come si gestisce il telefono e quanti clic servono per arrivare a fare a attivare una determinata funzione. C'è di più: queste piattaforme delle aziende aggiungono anche delle funzioni, quindi consentono di fare delle cose che possono essere rintracciare il telefono se è stato perso, mandare un impulso per mandare un messaggio se qualcuno l'ha trovato, cancellare i dati, sì, quindi sì. Sono tutte funzioni che poi mirano a fare cose. a fidelizzare l'utente. Io penso che il mercato in qualche modo abbia creato alcune gabbie per alcuni produttori di telefoni che, scegliendo Android, si sono messi alla pari di altri brand. Sicuramente ci sono grandi opportunità per brand meno conosciuti, ed è anche questo un motivo per cui Nokia ad un certo punto doveva decidere che cosa fare, e sarebbe stata la morte definitiva andare su Android, confondersi con tutti gli altri, e la scelta di Windows è stata dettata anche questo ecosistema che è cambiato così rapidamente. Forse quella era l'unica scelta. Che sia vincente o no, lo deciderà il mercato e lo vedremo. Ferraro, non è... due cose? Sì, sì, prego, prego. Come costruttore con Android possiamo anche fare altre due cose. Uno, segmenti di prezzo, perché voglio dire, ci sono Android da poco più di 100 euro a diverse centinaia d'euro. Quindi segmentazione che dipende dalle scelte fatte in termini di dimensioni, display e quant'altro. E non dimentichiamo l'estetica, voglio dire, anche questo è un argomento di differenziazione dei nostri prodotti rispetto agli altri, insomma. Sì. Sento Marco da Padova. Buongiorno Marco. Buongiorno. Volevo intervenire riguardo quello che stavate dicendo sui sistemi Android e su iPhone. Faccio una piccola premessa. Che io sono un utilizzatore Apple, diciamo, però non sono di quelli che hanno la meletta dietro la macchina. Sì, sì, giusto, giusto. Ok, anche perché diciamo che questo mercato dove delle app a pagamento, comunque di tutto blindato, in questa esplosione di Mac user, un pochino mi dà fastidio, ecco, nel senso che Mac era famoso per dei prodotti che duravano molto senza aggiornamenti, adesso sta cambiando la tendenza. Però vorrei fare un'analisi di mercato, ovvero l'aspetto che la cosa forte dell'iPhone è che di fatto è un brand con una piattaforma, cioè è sia un prodotto che una piattaforma, mentre magari puntualizzo l'ovvio, però Android di fatto è una piattaforma che utilizzano i brand, quindi quei dati di diffusione, quelle proiezioni che facevate prima, non so se sono molto, non tanto attendibili, ma se sono molto utili, nel senso che di fatto l'espansione di iPhone e della piattaforma iPhone sono molto più forti perché sono un hardware e un software, mentre la diffusione di Android sicuramente è forte come diffusione di piattaforma, ma per quanto riguarda diciamo i numeri che poi vanno in tasca ai produttori si ripartiscono in tanti marchi, per sì, quanto sì. Poi la piattaforma sia unica. Questo che tu dici Marco è corretto, l'analisi che prima Massimo Morandi ci riferiva di Gartner è fatta sui sistemi operativi, per capire, visto che ormai i giochi si fanno sugli ecosistemi e i sistemi operativi sono centrali in tutto ciò, l'analisi era fatta su questo, ma è corretto anche quello che tu dici Marco. Se non hai null'altro da aggiungere, anche perché abbiamo pochi minuti prima di terminare. Perfetto. Grazie. Condivido la tua analisi, grazie a Marco. Vorrei sentire Vincenzo da Napoli, poi andiamo a Cagliari da Maria Chiara Grandis. Buonasera a tutti, auguri di Pasqua anticipati. Volevo un attimino puntualizzare quello che un ascoltatore ha detto prima della cattiva ricezione degli smartphone. Sì. Allora, di fatto c'è un motivo tecnico che c'è dietro questa, che non è una sensazione ma è una realtà. Il concetto è molto semplice, gli smartphone sostanzialmente lavorano in 3G e agli albori del 3G non esiste, diciamo, uno poteva o fare una chiamata voce o fare una chiamata dati. Quello che poi è avvenuto nel corso del tempo è quello che si chiama in gergo multi-hub, cioè la possibilità di avere una chiamata voce associata a un canale dati allo stesso tempo. Poiché, provo a farla semplice. Sì, perché poi sennò abbiamo poco tempo. Assolutamente, perché la codifica del canale voce è molto più light della codifica del canale dati, quando io associo i due canali insieme nella multi-hub, avviene che la copertura è dettata dal peggiore, cioè da quello dati. Quindi è vero che gli smartphone, poiché lavorano in multi-hub, quindi scambio dati, possono avere una ricezione peggiore. Quindi così. Esatto, confermiamo quello che a volte, devo dire, sono anche gli operatori che potrebbero lavorare molto meglio sulla copertura del territorio e per risparmiare qualche soldo. Non lo fanno, però c'è una combinazione di fattori. Grazie anche a Vincenzo. Maria Chiara Grandis... Sì, buon pomeriggio ancora Enrico, noi siamo a Cagliari e qui al punto vendita Troni del centro commerciale Santa Gilla abbiamo voluto chiedere anche ai consumatori come ci si orienta oggi fra tastiera fisica oppure tastiera virtuale del proprio telefono cellulare. E dunque la moda impone il touchscreen, ci ha detto qualcuno, però la tastiera fisica è ancora percepita come più pratica, per esempio da chi utilizza il cellulare soprattutto per scrivere SMS oppure le email. Certo, i più raffinati chiedono entrambe le cose, ci dicono gli addetti alle vendite, e c'è anche qualcuno che dopo aver provato il touch poi torna sui suoi passi. Sentiamo allora le voci che abbiamo raccolto. Touchscreen. Perché? Comodità, polvere, abrogiamo. È più bello. Sì, più bello sì. Tastiera, forza, perché scrivo anche senza guardare e quindi tastiera mi viene meglio perché sento i tasti. Avevo un touchscreen ma non ha funzionato bene. Tu preferisci tastiera fisica? Sì, così, normale, semplice. Io verso il telefonino con i tasti, sinceramente, mi trovo meglio e molto più comodo. Sto guardando per un touchscreen effettivamente. Beh, effettivamente questo è un grande dibattito, anche se devo dire, Massimo, oramai non è quasi più un dibattito, nel senso che bastano poche settimane ci si abitua al touch. Sì, questo è vero. No. Poi sì, sono d'accordo. Poi in questo caso è l'industria che ha portato quasi alla quasi scomparsa dei telefonini con tastiera. Poi tu ti ricorderai, c'è stato un momento in cui c'erano tutte conchiglie, no? I cosiddetti clamshell, oggi non se ne trova più uno neanche a cercarlo. Quindi ci sono anche delle mode. Però devo dire che parlando di touchscreen è stata una delle spinte fondamentali per lo sviluppo degli smartphone. E naturalmente a questo va dato atto a Apple e a Steve Jobs di aver avuto un'invenzione geniale. A proposito di tastiera, volevo dare una buona notizia, perché a proposito di nicchie, visto che abbiamo parlato dei cellulari dual SIM, sono già arrivati, ma stanno sempre più uscendo sul mercato, anche telefoni con i tasti grandi, finalmente. Perché in alcune situazioni, devo dire che i tasti o il touch creano un po' di problemi. Non solo alle persone anziane, devo dire che No, io ho una dita proprio piccola. C'è proprio, considerato questo grandissimo sviluppo tecnologico, c'è stata questa controrichiesta di tornare alla semplicità per chi vuole fare un utilizzo molto basilare del telefono, quindi chiamare, ricevere telefonate e mandare SMS. E in questo caso i menu troppo complicati, troppo evoluti, a una grande fetta di persone possono causare dei problemi. Questi telefoni hanno solo tasti grandi, menu semplicissimi, quindi 3-4 voci al massimo, alcuni hanno addirittura un tasto SOS che può essere predirezionato su una numerazione e comunque questi telefoni assolvono al dovere che viene loro chiesto. Sì, senti, anche in questo caso i grandi marchi non ci sono? I grandi marchi in questo settore non ci sono, anche se tutti gli istituti di analisi dicono la popolazione europea sta invecchiando, questo è un segmento che non bisognerà trascurare. Quindi datevi una svegliata. Ringrazio Flavio Ferrario, Country Manager Alcatel One Touch. A presto, buon lavoro e buona Pasqua. Buonasera a voi tutti. E ringrazio anche Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine. In regia ci hanno aiutato oggi, in regia e in redazione, Viola e Giorgio. Grazie anche a Paolo Corleoni, il nostro tecnico che si occupa anche della parte creativa del programma. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana. E vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci, 2024@radio24.it. Massimo, buona Pasqua anche a te. Buona Pasqua a te e a tutti i nostri ascoltatori. 2024. 31 seconds and we're on for auto sequence start.